Paulina Rodriguez de Santa Cruz scese dal Fortuna come un'imperatrice, circondata dal suo seguito e con un bagaglio di 93 bauli. Per il capitano John Somers, per i passeggeri e per l'equipaggio, il terzo viaggio con il ghiaccio era stata una tortura. Paulina aveva fatto sapere a tutti che l'imbarcazione era sua e per dimostrarlo, contraddiceva il capitano e dava ordini arbitrari ai marinai. Non ebbero nemmeno il sollievo di vederla soffrire di mal di mare, perché il suo stomaco da elefantessa resistette alla navigazione, limitandosi a denunciare un aumento dell'appetito. I suoi figli si perdevano in continuazione negli angoli più disagevoli della nave, nonostante le tate non togliessero loro gli occhi di dosso, e quando ciò si verificava, a bordo suonavano gli allarmi e bisognava fermare la marcia, perché la madre, disperata, strillava che erano caduti in mare. Il capitano cercava di spiegarle con la massima delicatezza che in quel caso bisognava solo rassegnarsi perché probabilmente l'Oceano Pacifico se li era già inghiottiti, ma lei ordinava comunque di calare in mare le scialuppe di salvataggio. Prima o poi le creature rispuntavano fuori e dopo alcune ore di tragedia si poteva riprendere il viaggio. A cadere nell'oceano fu invece l'antipatico cagnolino da compagnia, che un giorno scivolò in acqua davanti a molti testimoni che rimasero muti. Sul molo di San Francisco, il marito e il cognato attendevano Paolina con una fila di carri e carrozze pronti a trasportare la famiglia e i bagagli. La nuova residenza, costruita per lei, un'elegante casa vittoriana, era arrivata imballata dall'Inghilterra con casse numerate e un progetto per assemblarla. Erano state importate anche la carta da parati, i mobili, l'arpa, il pianoforte, le lampade e perfino le statuette di porcellana e i quadri bucolici per decorarla. A Paolina non piacque. Paragonata alla sua magione cilenea e ai suoi marmi, sembrava una casetta da bambole che rischiava di crollare quando ci si appoggiava ai muri. Ma per il momento non c'erano alternative. Le bastò dare un'occhiata all'effervescente città per rendersi conto delle sue possibilità. Ci stabiliremo qui, Feliciano. I primi arrivati con il tempo diventano i membri dell'aristocrazia. Ma lo sei già in Cile? Io sì, ma tu no? Credimi, questa diventerà la città più importante del Pacifico. Sì, una città di delinquenti e di puttane. Esattamente, le due categorie che più ambiscono alla rispettabilità. Non ci sarà famiglia più prestigiosa dei Cross. Peccato che i gringo non riescano a pronunciare il tuo vero nome. Cross è un nome da produttore di formaggio, ma va bene, penso che non si possa avere tutto dalla vita. Il capitano John Somers si diresse verso il miglior ristorante della città, deciso a bere e a mangiare bene, per dimenticare le 5 settimane in compagnia di quella donna. Aveva trasportato diverse casse con le nuove edizioni illustrate dei libri erotici. Il successo riscosso dai precedenti era stato eccezionale e sperava che la sorella Rose recuperasse lo spirito e si rimettesse a scrivere. Dopo la scomparsa di Eliza, era sprofondata nella tristezza e non aveva più ripreso in mano la penna. Anche l'umore di lui era cambiato. Sto invecchiando, maledizione, diceva quando si ritrovava perso in inutili nostalgie. Non aveva avuto tempo di godersi quella figlia, di portarsela in Inghilterra come aveva progettato. Non aveva neanche avuto modo di dirle che era suo padre. Era stanco di inganni e misteri. Il commercio di quei libri era un altro dei segreti familiari. 15 anni prima, quando la sorella Rose gli aveva confessato che alle spalle di Jeremy scriveva impudiche storie per non morire di noia, gli era venuta l'idea di farle pubblicare a Londra, dove il mercato dell'erotismo, insieme a quello della prostituzione e ai club di flagellanti, era fiorito a mano che si andava imponendo la rigida mentalità vittoriana. In una remota provincia del Cile, seduta a un lezioso scrittoio di legno chiaro, senza altra fonte di ispirazione se non i ricordi del suo unico amore, mille volte amplificati e perfezionati, sua sorella sfornava un romanzo dietro l'altro con la firma Una dama anonima. Nessuno poteva credere che quelle storie focose, alcune con un tocco evocativo del Marchese de Sade, già classiche nel loro genere, fossero redatte da una donna. A lui spettava il compito di portare i manoscritti all'editore, controllare i conti, riscuotere gli introiti e depositarli in una banca londinese per la sorella. Era il suo modo di ricambiarle il favore di aver accolto sua figlia e di aver taciuto. Eliza. Ah, non riusciva a ricordare sua madre da cui lei aveva ereditato i tratti fisici, mentre da lui senz'altro lo slancio per l'avventura. Dove si trovava? Con chi? Rose insisteva che era partita per la California sulle tracce dell'amante, ma più il tempo passava, meno ci credeva. Il suo amico Jacob Todd Fremont, adesso che aveva fatto della ricerca di Eliza la sua missione personale, gli aveva assicurato che non aveva mai messo piede a San Francisco. Fremont si trovò con il capitano per cena e poi lo invitò a uno spettacolo leggero in uno dei locali da ballo della zona rossa. Gli raccontò che Hathaway, la cinese che avevano intravisto dai buchi nel muro, adesso gestiva una catena di bordelli e una sala molto elegante dove venivano offerte le migliori ragazze orientali, alcune di soli 11 anni, allenate a soddisfare tutti i capricci, ma non era quella la loro meta. Sarebbero andati a vedere le danzatrici di un harem turco, disse. Poco dopo stavano fumando e bevendo in un edificio a due piani con tavoloni di marmo, lucidi bronzi e quadri di ninfe mitologiche inseguite da fauni. Donne di varie razze si occupavano della clientela, servivano liquori e gestivano i tavoli da gioco, sotto lo sguardo vigile di ruffiani armati e vestiti con sgargiante affettazione. Su entrambi i lati della sala principale, in vani privati, si scommettevano somme ingenti. Lì si riunivano le tigri del gioco per rischiare palate di soldi in una notte. Politici, giudici, commercianti, avvocati e criminali, tutti accomunati dal medesimo vizio. Lo spettacolo orientale risultò deludente per il capitano, che aveva visto l'autentica danza del ventre a Istanbul e immaginò che quelle sgraziate ragazze sicuramente facessero parte dell'ultimo carico di prostitute di Chicago appena arrivato in città. Gli avventori, per la maggior parte rozzi minatori incapaci di situare la Turchia su una cartina, impazzivano di entusiasmo per quelle odalische coperte a malapena da una gonnellina di perline. Annoiato, il capitano si diresse a uno dei tavoli da gioco in cui una donna distribuiva con incredibile destrezza le carte del monte. Se ne avvicinò un'altra e, prendendolo per un braccio, gli sussurrò un invito all'orecchio. Si girò per guardarla. Era una sudamericana tarchiata e volgare, ma con un'espressione di genuina allegria. Stava per declinare l'invito perché aveva progettato di passare il resto della serata in una delle sale costose dove era stato in ognuno dei suoi precedenti soggiorni a San Francisco, quando i suoi occhi si fissarono sulla scollatura. Tra i seni spiccava una spilla d'oro e turchesi. «Dove l'hai presa?» gridò afferrandola per le spalle con due artigli. «È mia! L'ho comprata!» balbettò terrorizzata. «Dove?» e continuò a scuoterla fino a quando non sopraggiunse uno dei gorilla. «Qualcosa non va, mister», minacciò l'uomo. Il capitano fece segno di voler appartarsi con la donna e se la portò praticamente a braccia in uno dei cubicoli del secondo piano. Tirò la tenda e con un solo schiaffo in viso la fece cadere supina sul letto. «Adesso o mi dici dove hai preso quella spilla o ti faccio saltare tutti i denti, è chiaro?» «Non l'ho rubata, signore, glielo giuro, me l'hanno data. Chi te l'ha data?» «Se glielo dico non mi crederà. Chi?» Una ragazza tempo fa su una nave. E Azucena Plathres non poté fare a meno di raccontare a quell'energumeno che la spilla gliel'aveva data a un cuoco cinese in cambio delle cure prestate a una povera creatura che stava morendo a causa di un aborto nella stiva di una nave in mezzo all'Oceano Pacifico. E mentre parlava, la furia del capitano si trasformava in orrore. E poi, cos'è successo alla ragazza? Chiese John Somers con la testa fra le mani, distrutto. «Non lo so, signore. Per quello che hai di più caro, per favore, dimmi cosa ne è stato di lei!» supplicò, mettendole sulla gonna un fascio di banconote. «Ma lei chi è?» «Sono suo padre.» Morì dissanguato e buttammo il corpo in mare. «Glielo giuro, è la verità!» replicò Azucena Plathres senza esitare, pensando che se quella sventurata aveva attraversato mezzo mondo, nascosta in un buco come un topo, da parte sua sarebbe stata un'imperdonabile mascalzonata a indirizzare il padre sulle sue tracce. Eliza trascorse l'estate nel paese perché tra una cosa e l'altra le giornate volarono. Anzitutto Babalù il Cattivo ebbe un attacco fulminante di dissenteria che scatenò il panico perché si credeva che ormai l'epidemia fosse sotto controllo. Da mesi non si erano verificati altri casi, salvo quello di un bambino di 2 anni, la prima creatura che nacque e morì in quel luogo di passaggio per avventurieri e arricchiti. Quel bambino appose un marchio di autenticità al paese, non più un accampamento allucinato con una forca come unico simbolo a garanzia del diritto a figurare sulle cartine. Ora poteva contare su un cimitero cristiano e sulla piccola tomba di qualcuno che aveva trascorso lì tutta la vita. Finché il capannone era stato adibito a ospedale, si erano salvati dal contagio per miracolo, perché Joe non credeva alle epidemie, diceva che era solo questione di fortuna. Il mondo trabocca di infezioni, alcuni se le beccano e altri no. In virtù di ciò non prendeva precauzioni. Si consentì il lusso di prescindere dalle raccomandazioni di buon senso del medico e solamente a denti stretti a volte faceva bollire l'acqua da bere. Una volta trasferitisi in una casa vera e propria, si sentirono tutti al sicuro. Se non si erano ammalati prima, adesso le probabilità erano ancora inferiori. Pochi giorni dopo il crollo di Babalù toccò alla spaccaossa, alle ragazze del Missouri e alla bella messicana. Dovettero arrendersi a una ripugnante dissenteria, a febbri da cavallo e a brividi incontrollabili, in grado, nel caso di Babalù, di scuotere la casa. Fu allora che si presentò James Morton vestito da festa a chiedere formalmente la mano di Esther. Ah, ragazzo mio, non potevi scegliere un momento peggiore, sospirò la spaccaossa, ma era troppo malata per opporsi e tra i lamenti acconsentì. Esther distribuì le sue cose tra le compagne perché non voleva portarsi niente nella nuova vita e si sposò quello stesso giorno senza grandi formalità, scortata da Tom senza tribù e da Eliza, gli unici sani della combriccola. Su entrambi i lati della strada si era formata una doppia fila dei suoi antichi clienti che spararono colpi in aria, applaudendo la coppia che passava. Si stabilì nella fucina con l'intenzione di trasformarla in focolare e di dimenticare il passato, ma ogni giorno trovava la maniera di andare a casa di Joe per portare ai malati cibo caldo e indumenti puliti. Su Eliza e Tom senza tribù ricadde l'ingrato compito di accudire gli altri abitanti della casa. Il dottore del paese, un giovane di Filadelfia che da mesi, senza che nessuno gli badasse, avvertiva che l'acqua era stata inquinata dai rifiuti dei minatori a monte del fiume, dichiarò la casa di Joe in quarantena. I soldi terminarono e se non morirono di fame fu grazie a Esther e ai regali anonimi che apparivano misteriosamente sulla porta. Un sacco di fagioli, qualche libra di zucchero, tabacco, sacchettini di oro in polvere, qualche dollaro d'argento. Per aiutare i suoi amici, Eliza fece ricorso a quanto aveva appreso da mamma Fresia durante l'infanzia e da Tao Chien a Sacramento, fino a quando finalmente, a uno si furono rimesse tutte, anche se per un certo periodo rimasero un po' debilitate e intontiti. Babalù il cattivo fu quello che patì di più. Il suo corpaccione da ciclope non era abituato a non essere in salute, dimagrì e la pelle gli si vuotò a tal punto che persino i tatuaggi persero forma. In quei giorni il giornale locale pubblicò una breve notizia a proposito di un bandito cileno o messicano, non si sapeva con certezza, chiamato Joaquín Murieta, che stava acquistando una certa fama in lungo e in largo nella veta madre. In quel periodo, nella regione dell'oro imperava la violenza. Disillusi dalla consapevolezza che la fortuna istantanea, come un miracolo beffardo, era toccata solo a pochissimi, gli americani accusavano gli stranieri di essere avidi e di arricchirsi senza contribuire alla prosperità del paese. L'alcol li infervorava e la possibilità di esercitare impunemente una giustizia fraudolenta dava loro un irrazionale senso di potere. Non veniva mai condannato uno Yankee per crimini contro le altre razze. Peggio ancora, un bianco poteva addirittura scegliersi la giuria. L'ostilità razziale si trasformò in odio cieco. I messicani negavano la perdita del loro territorio durante la guerra e non accettavano di essere espulsi dai loro ranch o dalle miniere. I cinesi sopportavano silenziosamente gli abusi, non se ne andavano e continuavano a cercare l'oro, con guadagni irrisori, ma con una tenacia tale che grammo dopo grammo accumulavano ricchezze. Migliaia di cileni e peruviani, tra i primi ad arrivare quando era scoppiata la febbre dell'oro, decisero di rientrare nei loro paesi perché in tali condizioni non valeva la pena di inseguire sogni. In quell'anno, il 1850, il Parlamento californiano approvò un'imposta mineraria studiata per proteggere i bianchi. Neri e indiani non erano contemplati, a meno che non lavorassero come schiavi, e i forestieri dovevano pagare $20 e rinnovare mensilmente la registrazione della loro proprietà. Operazione che nella pratica risultava impossibile, non potevano abbandonare i giacimenti per intraprendere un viaggio di settimane verso le città dove avrebbero potuto adempiere la legge, ma se non lo facevano, lo sceriffo occupava la terra e la consegnava a un americano. I preposti per rendere effettive tali misure venivano designati dal governatore e il loro stipendio era costituito da imposte e multe, metodo efficace per stimolare la corruzione. La legge veniva applicata solamente contro gli stranieri dalla pelle scura, benché i messicani godessero del diritto di cittadinanza americana, come recitava il trattato che aveva messo fine alla guerra nel 1848. Un altro decreto diede loro il colpo di grazia. La proprietà dei loro ranch, dove erano vissuti per generazioni, doveva essere ratificata da un tribunale di San Francisco. Il procedimento durava anni, costava un patrimonio e inoltre, spesso e volentieri, giudici e ufficiali giudiziari erano proprio coloro che si erano impossessati del terreno. Appurato che la giustizia non li proteggeva, molti di loro si collocarono al di fuori di essa, assumendo proprio il ruolo di malviventi. Chi prima si accontentava di rubare bestiame ora assaliva minatori e viaggiatori solitari. Alcune bande divennero celebri per la loro crudeltà. Non solo derubavano le vittime, ma si dilettavano anche a torturarle prima di assassinarle. Si parlava di un bandito particolarmente sanguinario al quale, tra gli altri delitti, veniva attribuita la morte raccapricciante inflitta a due giovani americani. Sui loro corpi, trovati legati a un albero, erano visibili tracce evidenti che erano stati usati come bersaglio per il lancio di coltelli. Erano state anche tagliate le lingue, strappati gli occhi e tolta la pelle. Ed erano stati abbandonati vivi, destinati a una morte lenta. Il criminale veniva chiamato Jack Tredita e si diceva fosse il braccio destro di Joaquin Murieta. Ciò non di meno, non tutto era barbarie. Le città si sviluppavano e sorgevano nuovi paesi, si insediavano famiglie, nascevano giornali, compagnie di teatro e orchestre, venivano edificate banche, scuole, chiese, si costruivano strade e si miglioravano le comunicazioni. Era stato introdotto un servizio di diligenze e la posta veniva distribuita con regolarità. Le donne continuavano ad arrivare e fioriva una società che aspirava all'ordine e alla moralità. Non era più lo sfascio dei tempi iniziali di uomini soli e prostitute. Si cercava di introdurre la legge e di tornare alla civiltà dimenticata nel delirio dell'oro facile. Al paese venne assegnato un nome decoroso in una solenne cerimonia con tanto di banda e parata, alla quale prese parte Joe Spaccaossa per la prima volta vestita da donna, spalleggiata da tutta la sua compagnia. Le spose appena giunte recalcitravano davanti alle facce truccate, tra virgolette, ma siccome Joe e le sue ragazze avevano salvato tante anime durante l'epidemia, chiudevano un occhio sulle loro attività. Contro l'altro bordello scatenarono invece una vera guerra, inutile perché la percentuale era ancora di una donna su 9 uomini. Alla fine dell'anno James Morton diede il benvenuto a 5 famiglie di quaqueri che avevano attraversato il continente. In carri trainati da buoi e non venivano per loro, bensì attratti dagli spazi sconfinati di quella terra vergine. Eliza ormai non sapeva più che pista seguire. Joaquin Andieta si era perso nella confusione di quei tempi e al suo posto cominciava a profilarsi l'immagine di un bandito dal nome simile e che rispondeva alla stessa descrizione fisica, ma che a lei risultava impossibile far combaciare con il nobile giovane che amava. L'autore di quelle lettere appassionate, che conservava come suo amico unico tesoro, non poteva essere colui al quale venivano attribuiti crimini tanto efferati. L'uomo che cercava non si sarebbe mai associato a un sadico come Jack Tredita, ne era sicura. Ma la certezza vacillava di notte quando Joaquin le appariva con 1.000 maschere diverse, portandole messaggi contraddittori. Si svegliava tremante, perseguitata dai deliranti spettri dei suoi incubi. Ormai non riusciva più a entrare e a uscire dai sogni come le aveva insegnato durante l'infanzia Mama Fresia, né a decifrare visioni e simboli che rimanevano a vagarle nella testa, come un rimbombare di sassi trascinati da un fiume. Scriveva instancabilmente sul suo diario con la speranza che tale gesto attribuisse qualche significato alle immagini. Rileggeva le missive amorose, lettera dopo lettera, ma ne traeva solo un'ulteriore perplessità. Quelle lettere, costituivano l'unica prova dell'esistenza dell'amante e vi si aggrappava per non uscire completamente di senno. Spesso le era difficile resistere alla tentazione di sprofondare nell'apatia come via di fuga al tormento della continua ricerca. Dubitava di tutto, degli abbracci nella stanza degli armadi, dei mesi di prigionia nella stiva, del bambino che aveva perso. I problemi finanziari provocati dal matrimonio di Esther con il fabbro, che aveva privato di colpo la compagnia di un quarto delle entrate, e dalle settimane trascorse dagli altri nella prostrazione della dissenteria, furono tali che Joe si ritrovò sul punto di perdere la casetta. Ma l'idea di vedere le sue colombe lavorare per la concorrenza la pungeva sul vivo, spronandola a continuare a lottare contro le avversità. Erano passate per l'inferno e lei non poteva spingerle di nuovo a quella vita perché, molto suo malgrado, a loro si era affezionata. Si era sempre considerata un grave errore di Dio, un uomo costretto a forza nel corpo di una donna e pertanto non riusciva a capacitarsi di quella sorta di istinto materno che le era scaturito quando meno le conveniva. Si occupava di Tom senza tribù in modo esclusivo, ma le piaceva rimarcare che lo faceva da sergente. Di coccole non se ne parlava, non erano nella sua indole e comunque il bambino doveva crescere forte come i suoi antenati. Le smancerie, servivano solo a minare la virilità. Ricordava Eliza quando la trovava con il ragazzino in braccio intenta a raccontargli fiabe cilene. Questa tenerezza nuova nei confronti delle sue colombe risultava essere un serio intralcio e, come se non bastasse, loro se ne erano accorti e avevano iniziato a chiamarla madre. L'appellativo la mandava in bestia, glielo aveva proibito, ma loro non le badavano. «Abbiamo un rapporto commerciale. Diamine, non posso essere più esplicita. Fino a quando lavorerete avrete soldi, un tetto, cibo e protezione. Ma se un giorno vi ammalerete, vi indebolirete, vi verranno le rughe e i capelli bianchi, in questo caso, tanti saluti». «Non ci metterò molto a rimpiazzarvi. Il mondo è pieno di ragazze di vita», borbottava. E allora, all'improvviso, si affacciava a complicarle la vita quel sentimento dolciastro che nessuna mezzana in pieno possesso delle sue facoltà poteva permettersi. «Se non fossi una brava persona, non avresti queste noie», la prendeva in giro Babalù il cattivo. Ed era vero, perché mentre lei aveva impiegato tempo prezioso a curare ammalati di cui nemmeno conosceva il nome, l'altra tenutaria non ammetteva nessun contagiato nei pressi del suo locale. Joe era ogni giorno più povera, mentre l'altra era ingrassata, si era tinta i capelli di biondo e si era fatto un amante russo, più giovane di lei di 10 anni, con muscoli da atleta e un diamante incastonato in un dente. Aveva ampliato l'attività e durante i fine settimana i minatori si incolonnavano davanti alla sua porta con i soldi in una mano e il cappello nell'altra, perché nessuna donna, per quanto in basso fosse scesa, tollerava un cappello sul capo. «Non c'era proprio futuro in quella professione», sosteneva Joe. «La legge non le proteggeva. Dio le aveva dimenticate e all'orizzonte si intravedevano solo vecchiaia, povertà e solitudine». Pensò che potevano dedicarsi al lavaggio della biancheria e alla preparazione di torte, mantenendo i tavoli da gioco e la vendita dei libri osè, ma le sue ragazze non erano disposte a guadagnarsi da vivere con lavori tanto umili e mal pagati. «Questo è un lavoro di merda, bambine mie. Sposatevi, studiate da maestre, fate qualcosa della vostra vita e non rompetemi più le scatole», sospirava tristemente. Anche Babalù il cattivo era stanco di fare da ruffiano e gorilla. La vita sedentaria lo annoiava e la spaccaos era talmente cambiata che non aveva molto senso continuare a lavorare insieme. Se lei aveva perduto entusiasmo per la professione, a lui cosa restava? Nei momenti di disperazione si confidava con il cilenito e insieme indugiavano a fare progetti fantastici per emanciparsi. Avrebbero messo in piedi uno spettacolo ambulante. Pensavano di comprare un orso e di allenarlo a tirare di box, per andare di paese in paese a sfidare i bulli perché si battessero a pugni con l'animale. Babalù era in cerca di avventure ed Eliza pensava che fosse un buon pretesto per viaggiare in compagnia alla ricerca di Joaquin Andieta. Lì, con la spaccaossa, a parte cucinare e suonare il piano, non aveva grandi possibilità e anche a lei l'ozio induceva il cattivo umore. Desiderava recuperare l'infinita libertà del viaggio, Ma si era affezionata a quelle persone e l'idea di separarsi da Tom senza tribù le spezzava il cuore. Il bambino ormai leggeva scioltamente e scriveva con precisione perché Liza lo aveva convinto che una volta diventato grande doveva studiare per diventare avvocato e dedicarsi a difendere i diritti degli indiani, invece di vendicare i morti a colpi di pistola come voleva Joe. Così diventerai un guerriero molto più potente e i gringo avranno paura di te, gli diceva. Ancora non rideva, ma in un paio di occasioni, quando le era andato di fianco per farsi grattare la testa, si era disegnata l'ombra di un sorriso sul suo volto di indiano adirato. Tao Chien si presentò a casa della Spacca Ossa alle 3 del pomeriggio di un mercoledì di dicembre. Gli aprì la porta a Tom senza tribù, lo fece accomodare nella sala che a quell'ora era libera e andò a chiamare le colombe. Poco dopo la bella messicana si presentò in cucina dove il cilenito stava impastando il pane per annunciare che c'era un cinese che domandava di Elias Andieta. Ma lei era talmente assorbita dal lavoro e dal ricordo dei sogni della notte precedente, in cui si confondevano tavoli da tombola a occhi strappati, che non le prestò attenzione. «Ti ho detto che c'è un cinese che ti cerca», le ripeté la messicana. E allora il cuore di Eliza fece uno scarto da cavallo. «Tao!» gridò e uscì di corsa. Entrando in sala, si trovò di fronte un uomo talmente diverso che ci impiegò qualche secondo a riconoscere l'amico. Non aveva più la coda, portava i capelli corti, imbrillantinati e pettinati all'indietro, indossava occhiali rotondi dalla montatura metallica, un abito scuro, finanziera, gilet a 3 bottoni e pantaloni dritti. Su un braccio reggeva un soprabito e un ombrello e nell'altra mano un cappello a tuba. «Mio Dio, Tao, cosa ti è successo?» «In America bisogna vestirsi come gli americani», sorrise lui. Tanto per il gusto di divertirsi a spese di un celestiale, a San Francisco 3 gorilla lo avevano aggredito e prima che facesse in tempo a estrarre dalla cintola il suo coltello era stato stordito con una sprangata. Una volta riavutosi si era ritrovato sdraiato in un vicolo, sudicio di spazzatura, con la coda mozzata avvolta intorno al collo. Allora aveva preso la decisione di tenere i capelli corti e di vestirsi come i Fanguei. La sua nuova immagine stonava nel quartiere cinese, ma scoprì che fuori lo accettavano molto meglio e si aprivano porte che prima per lui erano sbarrate. Probabilmente era l'unico cinese con quell'aspetto in città. La treccia era considerata sacra e la decisione di tagliarla dimostrava il proposito di non tornare in Cina e di stabilirsi in modo definitivo in America. Un imperdonabile tradimento all'imperatore, alla patria e agli avi. Inoltre l'abito e la pettinatura provocavano meraviglia anche perché indicavano che aveva accesso al mondo degli americani. Eliza non riusciva a togliergli gli occhi di dosso, era uno sconosciuto con cui avrebbe dovuto cominciare a familiarizzare da capo. Tao Chien si chinò diverse volte nel consueto saluto e lei non osò obbedire all'impulso che le stava bruciando la pelle di buttargli le braccia al collo. Aveva dormito di fianco a lui molte notti, ma non si erano mai toccati senza l'espediente del sonno. «Credo che tu mi piacessi di più quando eri cinese dalla testa ai piedi, Tao. Ora non ti riconosco, lascia che ti annusi», gli chiese. Non si mosse, turbato, mentre lei lo odorava come fa un cane con la sua preda, fino a quando alla fine non ebbe riconosciuto la tenue fragranza di mare, lo stesso confortante aroma del passato. Il taglio di capelli e l'abbigliamento severo lo facevano sembrare più adulto. Non aveva più quella disinvolta aria giovanile di prima, era dimagrito, sembrava più alto, gli zigomi risaltavano sul suo volto liscio. Eliza osservò la sua bocca con piacere, ricordava perfettamente quel sorriso contagioso, i denti perfetti, ma non la forma voluttuosa delle labbra. Notò un'espressione cupa nello sguardo, ma pensò che fosse l'effetto delle lenti. «Come sono felice di vederti, Tao!» E gli occhi le si riempirono di lacrime. «Non sono potuto venire prima, non avevo l'indirizzo.» «Oh, mi piaci anche adesso, sembri un becchino, ma di quelli belli!» «Di questo mi occupo ora, di sepolture», sorrise lui. «Quando venni a sapere che vivevi in questo posto, pensai che i pronostici di Azucena Placere si fossero avverati. Diceva che prima o poi saresti finita come lei.» Ti ho spiegato nella lettera che mi guadagno da vivere suonando il piano. Incredibile! E perché? Non mi hai mai sentito? Non suono così male. E se posso spacciarmi per un cinese sordomuto, posso farlo anche come pianista cileno. Tao Chien scoppiò a ridere, sorpreso, perché era la prima volta da mesi che si sentiva contento. Hai trovato il tuo innamorato? No, ormai non so più dove cercarlo. Forse non vale più la pena che lo trovi. Vieni con me a San Francisco. Non ho niente da fare a San Francisco. E perché qui invece? L'inverno è già iniziato. Tra un paio di settimane le strade saranno impraticabili e questo paese rimarrà isolato. È molto noioso fare il tuo fratellino scemo, Tao. Oh, ci sono molte cose da fare a San Francisco, vedrai, e non dovrai vestirti da uomo. Adesso ci sono in giro un sacco di donne. E i tuoi progetti di tornare in Cina? Rimandati, non posso ancora andarmene.